Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Qua propta bene conscius pontes hus actus, plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore sancti Peti, vi per manus cardinalium, di undicesimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunziare ita da die. Buongiorno cari amiche e cari amici, avrete riconosciuto l'annuncio storico del pontefice di lunedì scorso con il quale ha annunciato le sue dimissioni, una vera e propria rivoluzione per la storia della Chiesa e non soltanto. E allora vediamo alcuni titoli che possono essere ispirati a questo passaggio così importante. Si può dire veramente epocale nella storia della Chiesa. Benedetto XVI stesso aveva appena pubblicato l'ultimo dei suoi libri dedicati a Gesù, L'infanzia di Gesù, che completa la trilogia dedicata a Cristo. Quest'ultimo volume è pubblicato come precedenti da Rizzoli, da Libreria Editrice Vaticana, 174 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Ingrid Stampa. In realtà questo, come dice l'autore stesso, non è un terzo volume, ma, scrive Ratzinger, una specie di piccola sala d'ingresso ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Gesù di Nazareth che avevamo ricordato in questa trasmissione. E questo testo dedicato appunto ai primi anni di Gesù apre squarci inaspettati, pur trattando gli anni ai quali si collegano gli aspetti in fondo più agiografici, più teneri, dal Natale alla Stella dei Magi. E infatti, commentando l'episodio del ritrovamento nel Tempio, il Papa, o dovremmo dire il futuro ex Papa, scrive che nelle descrizioni della figura di Gesù a volte viene rilevato quasi solo l'aspetto di contestazione, il procedere di Gesù contro una devozione falsa. Così Gesù appare un liberale o un rivoluzionario. In effetti, nella sua missione di figlio, conclude Ratzinger, Gesù ha introdotto una nuova fase della relazione con Dio, nella quale ha inaugurato una nuova dimensione del rapporto dell'uomo con Dio. E invece su Ratzinger, un'ottima guida al pensiero del pontefice, è un libro non recentissimo di un importante vaticanista, Marco Tosatti, si intitola Il dizionario di Papa Ratzinger, guida al pontificato, e pubblicato da Baldini Castoldi Dalai, 128 pagine. Questo libro è un'antologia praticamente del pensiero di Ratzinger, ricavato con materiali scritti o pronunciati prima di diventare Papa, e quindi è una guida sul personaggio che recupera grande attualità. E proprio su queste voci e sulle considerazioni che il Papa faceva, rivolgiamo alcune domande all'autore. Buongiorno a Marco Tosatti. Buongiorno a voi. Marco Tosatti, il suo libro veniva definito da lei stesso come una guida al pontificato che comincia. Ecco, adesso che si conclude questo pontificato, come aggiornerebbe queste pagine di introduzione che lei aveva scritto su Ratzinger? Beh, certamente con le dimissioni che sono state il gesto molto coerente con quello che lui è, con quello che lui è stato, e come Papa e come teologo, ma comunque un gesto dirompente, di sicuro traumatico per la Chiesa, perché è vero che di dimissioni nella Chiesa si parla praticamente dall'epoca di Pio XII, che era pensato per primo, e poi tutti gli altri papi a seguire, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, hanno affrontato questo problema e questo tema. Però il fatto di metterlo in atto per la prima volta, chiaramente è stato un fatto assolutamente traumatico e dirompente. Ecco, questo sicuramente. Perché dico che è stato coerente? Perché in realtà lui ha accettato di essere Papa per un grande senso del dovere, non credo che ne avesse moltissima voglia. Ha fatto tutto quello che poteva finché le forze lo hanno sostenuto, adesso è in uno stato in cui oggettivamente non riesce più proprio a, diciamo così, a dire a se stesso sto facendo in maniera onesta il mio lavoro. Ecco, questo gesto rivoluzionario, come lei stesso sottolineava, che ha compiuto in qualche modo conferma il suo giudizio. Lei nel libro sottolineava come uno degli stereotipi che avevano colpito Ratzinger quando era ancora cardinale era che fosse un conservatore, in fondo un conservatore che ha fatto un gesto rivoluzionario. Ma io credo che noi queste categorie di conservatori, di progressisti, noi giornalisti, me per primo, dobbiamo farci dei grandi mea culpa, nel senso che sono categorie che ci aiutano, ci hanno aiutato in un certo modo a semplificare dei racconti che sono molto molto più complessi. Lui stesso, certo, in dottrina era sicuramente qualcuno molto legato alla dottrina tradizionale, conservatore, però lo stesso Martini, che passava per essere un grande progressista, poi nella dottrina in realtà non lo era. Per cui diciamo che sono categorie un po' fasulle. Non c'è dubbio che lui ha compiuto un gesto assolutamente storico. Alcune voci del suo dizionario sono dedicate a un tema che a Ratzinger stava molto a cuore, cioè quello della liturgia. Ci sono delle voci in liturgia. Lui sicuramente, certo, lui sicuramente ha fatto molto durante il suo pontificato, cioè ha cercato di riportare, diciamo così, la liturgia su dei canoni di equilibrio e di via media che in certi momenti del dopo concilio erano stati abbandonati, insomma, ecco. Cioè ricordare che la liturgia è un bene di tutta la Chiesa ed è una tradizione, un'eredità che non è facile, diciamo così, buttare via o stravolgere, perché ha un senso profondo nella fede delle persone. Un riferimento quasi profetico è la piccola voce, la breve voce cattedra, quella di Pietro, è dura e scomoda. Così aveva detto. È vero. Lui in un'altra occasione ha detto: noi non siamo fatti per la vita comoda. Ma anche questa decisione è una decisione estremamente scomoda, perché voglio dire, probabilmente sarebbe stato più semplice per lui continuare a vivacchiare più o meno protetto, anche con la scusa di una malattia crescente, per cui avendo meno problemi. Invece ha scelto una via molto scomoda, che è quella intanto di dare un grosso trauma, come dicevamo, alla Chiesa, e poi di aprire una strada ai miei comportamenti che non sono per niente scontati. È chiaro che andrà in Vaticano, in questo suo piccolo monastero, proprio per non apparire in realtà poco anche da Papa, se vogliamo, per suo desiderio, era un Papa poco appariscente, tra virgolette, però non c'è dubbio che ha scelto una strada che non è scomoda, anche da un punto di vista personale, perché immagino che, non so cosa sarà la sua prima giornata lì in questo monastero, molta preghiera, io credo. Un paio di voci del dizionario sono dedicate a un altro tema che a Benedetto XVI stava molto a cuore, cioè quello del relativismo. Che cosa rimane di questa battaglia di Ratzinger? Beh, è tutto da fare, nel senso che lui ha cominciato sicuramente a farla in maniera molto molto forte, e d'altronde le spinte in questo senso, quando si parla di relativismo si parla di una concezione in cui l'individuo e l'individuo sano e l'individuo, diciamo così, attivo della società può decidere qualunque cosa di se stesso e in parte anche di altri, no? Ecco, e questa è una cosa che mi sembra che stia crescendo in maniera esponenziale. Pensiamo alla Francia, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo agli Stati Uniti d'America, in cui c'è una grande battaglia. Lui ha visto questa battaglia che si avvicinava, ha cominciato a combatterla e adesso lascerà che altri lo facciano. E ha fatto anche dei riferimenti a una malattia, secondo molti, che dilaga nel nostro tempo, cioè la correttezza politica. Ah, non c'è minimo dubbio, non si possono dire certe cose. Addirittura in America ci sono tre vescovi che hanno già dichiarato che loro sono disposti ad andare in galera pur di andare contro quelle che sono le regole di correttezza politica imposte dall'amministrazione Obama. E in Inghilterra succederà la stessa cosa. Non c'è dubbio che c'è, diciamo così, quella che poi Giovanni Paolo II già chiamava la dittatura del relativismo, nel senso che si può dire tutto solo se però è di un certo tipo. Altre cose non le si possono dire. Per cui è una forma di dittatura strisciante, soffice, tra virgolette, meno evidente o meno, diciamo così, ferrea apparentemente di altri tipi di dittatura che abbiamo conosciuto, che conosciamo, ma non per questo meno cogenti. E contro questa dittatura anche il Papa in fondo richiamava l'importanza della ragione, anzi della razionalità. La voce del dizionario dice: lui è un uomo estremamente razionale, non c'è dubbio, e lo diceva già appunto da cardinale, lo ha detto ancora più avanti, cioè fede e ragione devono sostenersi assieme, cioè l'una non è possibile senza l'altra. Poi ci sono delle voci dedicate alla politica, alle sue virtù, no alla sua teologizzazione, la Chiesa non la vuole. Ecco, che cosa pensava della politica Benedetto XVI? Ma io credo che in realtà sia uno dei temi che ha affrontato di meno, perché lui era un uomo magisteriale, è un uomo magisteriale, un uomo di dottrina, le contingenze, ma non so quanto lui sapesse di quello che succedeva in Italia o persino in altri casi del mondo, salvo per quelle che erano le ricadute sopra, diciamo così, poi dei fatti di vita umana e di fede. Io credo che veramente da questo punto di vista, mentre per Giovanni Paolo II l'interesse alla politica era grande, di sicuro per Benedetto XVI non è stato prevalente. Ecco, poi troviamo un giudizio abbastanza sorprendente sul Papa, che viene definito come una persona che non è un sovrano assoluto. Non c'è minimo dubbio, lo è teoricamente, ma in realtà non lo è, perché deve poi tener conto di tutta una sensibilità di Chiesa, di fedeli, di collaboratori, per cui tutte le sue decisioni, anche se in ultima analisi sembrano quelle di un sovrano assoluto, in realtà sono molto mediate, molto calibrate, molto equilibrate, e non è più, diciamo così, semmai lo è stato il tempo dei papi re. Bene, grazie a Marco Tosatti, autore del dizionario di Papa Ratzinger. Buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Ricordo che la casa editrice Shai Willer ha pubblicato negli anni passati 3 volumi dedicati alle omelie tenute dal Papa negli anni 2008, 2009 e 2010. Così si intitolano i libri, omelie che sono curate da Sandro Magister. Un curioso libro premonitore è quello di un esordiente, Paolo Pietro Poggi, che qui voglio ricordare, Il Papa Nero, edizione Il Papavero, 140 pagine, 12 euro, nel quale appunto incontriamo Eugenio V, il nuovo Papa che viene dall'Africa e che apre a radicali innovazioni. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Veniamo adesso alla narrativa, con un autore che è molto caro a tanti lettori, un autore del Novecento che ha dipinto come pochi la decadenza dell'Europa fino alla Seconda Guerra Mondiale, cioè Stefan Zweig, austriaco, morto suicida nel 1942 in Brasile, dove si era rifugiato per sfuggire alle persecuzioni naziste. Questo libro si intitola Il viaggio nel passato, è pubblicato da Ibis, 84 pagine, 8 euro, e si tratta di un testo del 29 tradotto da Anna Ruchat, che ritorna utilmente perché rappresenta una bella prova della capacità di Zweig di tratteggiare il clima dell'Europa che va verso la catastrofe. Qui la storia portante è quella di un amore impossibile che diventa il simbolo di un mondo al crepuscolo. E sempre di Zweig viene riproposto un altro titolo, Il candelabro sepolto, è pubblicato da Schirà, 188 pagine, 15 euro, tradotto da Anita Ro. Questo invece è un romanzo storico ambientato nella Roma conquistata da Genserico, il quale nell'enorme bottino che raccoglie nella capitale si impadronisce anche della menorah, l'antico candelabro a 7 bracci che era stato a sua volta rubato dal Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito. La comunità ebraica di Roma naturalmente farà di tutto per recuperare quell'insostituibile simbolo di identità che verrà messo in salvo senza essere violato. Naturalmente in questo libro c'è un forte senso di sfida, perché esso fu scritto nel 1936, quindi nel pieno delle leggi razziali, quando Zweig era un autore all'apice del successo, il più tradotto in Europa, ma era messo al bando dal nazismo che ne bruciava i libri. Nella postfazione Fabio Isman colloca la vicenda raccontata da Zweig nella storia, ricordando l'ansia con la quale ancora oggi il popolo di Israele cerca notizie della menorah, che sarebbe addirittura, secondo alcune versioni, in Vaticano. Insomma, un fiorire di voci e di leggende che riescono, come scrive Isman, a mantenere ancora in vita la menorah stessa. Ma sentiamo dal libro alcune righe sull'apparizione del candelabro nella sfilata organizzata a Bisanzio in onore di Genserico, un'apparizione che farà sobbalzare il vecchio Beniamino, messosi in cerca da Roma proprio di quella reliquia. Tra così abbaglianti ricchezze, la folla non si accorse nemmeno del comparire di alcuni oggetti che sembravano meschini di fronte al raffinato splendore del resto. Una tavola stretta, rivestita d'oro, 2 tube d'argento e un candelabro a 7 bracci. Nessuna esultanza accolse quelle modeste suppellettili, ma lassù tra la folla un vecchio diede un gemito e infilò la sinistra nel braccio del suo vicino. Dopo 80 anni il vegliardo rivedeva quel che aveva visto fanciullo, il sacro candelabro della casa di Salomone, il candelabro che, afferrato dalla sua mano infantile, gli aveva spezzato il braccio per sempre. Oh, vista beatifica! Era lui! Era quello stesso! Attraverso il tempo eterno, l'eterno candelabro tornava a riavvicinarsi di un passo alla sua patria. Il vecchio percepì la grazia di quella vista come una tempesta dell'animo. Non poté contenere l'eccesso del giubilo e gridò ardentemente «Nostro! Nostro!» Nostro per l'eternità. Un altro narratore, questo contemporaneo, di cui abbiamo proprio recentemente parlato per un libro che lo riguarda, è il russo Eduard Limonov. Il discusso personaggio, ve lo ricorderete, fondatore in particolare di un partito nazional-bolscevico che è grande oppositore di Putin. Limonov è certamente un personaggio sulfureo, ma anche un bravo scrittore e un ottimo cronista, come dimostra il libro di cui vi parlo sulla sua esperienza nelle prigioni di Putin dopo la condanna per un presunto complotto insurrezionale. Il libro si intitola Il trionfo della metafisica, memorie di uno scrittore in prigione, pubblicato da Salani, 250 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Giulia De Florio ed Elena Freda Piredda. I campi di lavoro sono forse meno brutali di quelli di Stalin, di cui peraltro Limonov è un nostalgico, ma l'autore ne prova tutte le delizie nelle steppe di Saratov assieme ai nemici dello Stato, i guerriglieri ceceni, per poi passare nella colonia penale di Engels, dove rimarrà per 2 mesi. E nel libro troviamo la descrizione straordinariamente efficace e in certi punti perfino ironica della vita del campo, dalla quale l'autore riesce a evadere in forma figurata col pensiero, arrivando, come spiega in queste righe, a forme di isolamento intellettuale e di abbandono che rasentano l'estasi. Indipendentemente da Simon Mago e dalla sua dottrina, il pensiero è un fenomeno importantissimo. È infatti la quinta dimensione, più grande delle 3 dimensioni dello spazio, in aggiunta al tempo. Il pensiero è una sfera indipendente, ed è proprio lui ad essere la prova dell'esistenza del mondo metafisico e invisibile. Una volta capito questo, anche tu, che sei il più limitato e arretrato dei lettori, ti convincerai che Simone non si stava dedicando a delle sciocchezze, non faceva solo lo stravagante, e capirai che la mia estasi nella colonia numero 13 è qualcosa di profondamente autentico, non meno reale della patata bollita che hai tu in tavola. Restiamo dalle parti della steppa, ma in un'altra prospettiva, quella di un viaggio di una celebre giornalista italiana, Luciana Castellina, una delle fondatrici del Manifesto, comunista non pentita, che si intitola Siberiana, pubblicato da Nottetempo, 186 pagine, 13,50 euro. Questo libro racconta di un viaggio effettuato pochi mesi fa assieme a 9 personalità che partecipavano a una spedizione chiamata Transiberiana Italia-Russia, che conduceva i viaggiatori da Mosca al confine tra la Mongolia e la Cina lungo un percorso segnato da città un tempo chiuse agli stranieri. E questo libro rappresenta un modo per rivedere e rileggere la Russia, inframmezzando questo viaggio con tanti ricordi di altri viaggi in Russia, e rappresenta appunto una bella sfida per l'autrice, che non ha mai nascosto di essere comunista. Per esempio, a Ekaterinenburg, Castellina ricostruisce la strage dei Romanov, che ebbe luogo proprio in quella città, e dinanzi a quella strage la Castellina dichiara il proprio relativismo storico, così proprio scrive, e osserva che anche la rivoluzione francese era costata la testa più di un innocente, a cominciare dalla povera Maria Antonietta. Era indispensabile nel 1789, non nel 1917? No, naturalmente, in nessuno dei due casi, risponde la Castellina. Ma si sa, conclude, che le rivoluzioni non sono un pranzo di gala. Che faremmo però se non ci fossero più? Io non vorrei rinunciarci, anche quando finiscono male. E al termine, naturalmente, la Castellina dà voce al disagio che pervade le nuove generazioni, più rabbia che contestazione, e di questo disagio ricorda la Castellina stesso proprio Limonov, è uno degli interpreti più efficaci. L'autrice scrive infatti che Limonov è diventato uno scrittore cult fra molti giovanissimi russi ed è dunque una chiave per capirli. È il solo dissidente sovietico rimasto al 100% dissidente anche in Russia. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto di Mattia Senar, Parlami di battaglie, di Re di Elefanti, pubblicato da Rizzoli, 188 pagine, 12 euro, tradotto da Jasmina Melois. È un libro di fantastoria dell'arte, perché parla di un viaggio di Michelangelo a Costantinopoli, dove sarebbe giunto il 1506 su invito del sultano, e nel libro si parla dell'impatto straordinario che su Michelangelo ebbe quella meravigliosa città. E infine, di Emma Wolf, vi ricordo Alla fine di un lungo inverno, è pubblicato da Tea, 252 pagine, 14 euro, tradotto da Alessandro Zabini, e rappresenta la testimonianza della dura liberazione dalla prigione, come la chiama l'autrice, della anoressia attraverso l'amore. E a questo punto, Il confettino di Isabel Minos Martens e Maddalena Matoso. Vi segnalo Pedali e Papere, pubblicato dalla Nuova Frontiera, 15 euro, tradotto dal portoghese da Francesca Di Giuseppe, che rappresenta una scoperta del mondo animale, appunto le papere, attraverso la bicicletta. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.